Ieri io sono stato alla conferenza stampa ed è stato per me emozionante, veramente emozionante, trovarmi di fronte all'evidenza terribile della storia e pensare a quante persone, stimate in più di 10 milioni, siano state schiavizzate, cioè soggiogate in vite invivibili da vari sistemi economici, mercantili, che hanno resistito fra l'altro per molto tempo. Insomma, mi sono reso ancora più conto che lo schiavismo, che per noi è inconcepibile, fino a poco tempo fa, perché si tratta di qualche centinaio di anni, era prassi comune. Sì, infatti, intanto i numeri. Noi abbiamo selezionato una parte della tratta degli schiavi, che è quella cosiddetta atlantica, cioè che si attuava tra l'Africa, tutta l'Africa occidentale e centrale, quella lungo l'Oceano Atlantico, e verso le Americhe, entrambe le Americhe, cioè l'America del Sud, l'America centrale e l'America del Nord. Quindi abbiamo selezionato quella, non perché fosse l'unica, ma perché essendo partiti appunto dall'idea di un discorso di cooperazione anche con Gorè, naturalmente abbiamo scelto il lato atlantico, non della schiavitù. E la schiavitù è avuta dagli 11 ai 13 milioni di schiavi che sono arrivati nell'America, non partiti, si va bene, arrivati nell'America. Perché poi ce ne sono partiti molto di più, ma sono morti durante il viaggio. La stima di 11-13 milioni è abbastanza accurata, perché è stata fatta anche su registri di arrivo, cioè di quelli che venivano sbarcati e venivano in qualche modo censiti, Sì, no? sì. O registrati, anche perché pagavano dazi di importazione, quindi venivano registrati. Questo dura praticamente 400 anni, cioè dalla fine del 400, inizio 500, fino grosso modo alla fine dell'800, quando anche il Brasile finalmente nel 1888 elimina la schiavitù. Quindi dura moltissimo, sono 11-13 milioni di persone su un arco di 4 secoli, con un secolo centrale che è il 700, dove c'è il grosso di questa operazione. Secondo punto, lei diceva è una cosa, diciamo, non dico normale, ma insomma non c'è molto diffusa, era qualcosa di più, era totalmente legale, cosa che in genere non è percepita secondo me dal pubblico, cioè la tratta fino all'inizio dell'Ottocento, cioè il commercio degli schiavi, non la schiavitù, il commercio degli schiavi, era totalmente legale e gli schiavi erano una merce, esattamente come qualsiasi altra merce. E su quello era legale, era permessa, quindi c'erano delle attività commerciali, virgolette, normali. E totalmente regolate anche sul piano giuridico e per esempio dal diritto commerciale, per esempio se si perdeva un carico, no, un carico umano di uomini e donne, poteva essere chiesto per esempio un'assicurazione. E ci sono processi famosissimi proprio fatti dalle assicurazioni che ovviamente non volevano pagare, quelle cose. Quindi era una merce a tutti gli effetti, e questo fino all'inizio dell'Ottocento, quando per prima poi l'Inghilterra viene elimina insomma la tratta degli schiavi. Ma siamo già al 1807-8. Sono stato impressionato da quanto queste date, siano recenti. La schiavitù, non la tratta, cioè non il commercio, ma la schiavitù in quanto tale, come istituzione, viene eliminata nell'America tardissimo. Cioè, Infatti. negli Stati Uniti viene eliminata dopo la guerra civile, cioè nel 1865, diciamo formalmente eliminata. In Brasile, come ho già detto, nel 1888, Sì, quindi ma. continua. In altri paesi dura, fra l'altro, è durata anche nel Novecento, no? Cioè, poi continua anche come tratto illegale, no? Per molto tempo. Sì, ma perlomeno illegale, ma l'aspetto legale è veramente da brividi. Tra le varie date ho visto ad esempio che uno stato molto vicino a noi, il Portogallo, ha abolito la schiavitù Esattamente. Certo. nel 1869, cioè l'altro ieri, intendo, quindi. Esatto, sì, esatto. Sì, anche l'Europa l'ha eliminato molto tardi, cioè l'Inghilterra lo fa relativamente, prima la Danimarca, in realtà qualche altro prima, e poi l'Inghilterra già all'inizio dell'Ottocento per effetto di fenomeni anche interni, di movimenti abolizionisti che avevano anche una base politica, filosofica, religiosa, e anche, questa è una cosa che mi preme sottolineare, e anche un impulso degli stessi ex schiavi africani che si erano, diciamo, emancipati e avevano cominciato a svolgere anche attività di tipo intellettuale ed erano abbastanza un numero non così piccolo nella Londra di fine 700 e inizio 800. Ci sono storie molto belle, alcune delle quali vengono anche raccontate dentro la mostra, insomma.